fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e non basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Quando sono le 16.06, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sei già abbastanza forte, ora farò di te. La radio è Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM. Ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me. Ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti. Cominciamo, come dire, più velocemente del solito questa trasmissione perché abbiamo un interlocutore che ci sta già ascoltando, che insomma per motivi di tempo non potevamo sentire più tardi. L'argomento è quello di un paio di corsi di aggiornamento per insegnanti, perché bene sì, pare che gli insegnanti si aggiornino. Ci sono sembrati due argomenti interessanti. Quello di cui andiamo a parlare adesso è riguarda orientamento sessuale e identità di genere nella scuola italiana. Dopo ne parleremo di un altro che riguarda più in generale le questioni del genere e del sessismo. Forse prendiamo subito il nostro interlocutore e parliamo di questo corso. Pronto, ciao, ci senti? No, sento malissimo, anzi... Senti malissimo? Non sento pressappoco nulla. E adesso? Sì, meglio. Ok. E niente, stiamo parlando con Gianfranco Goretti, che è una delle persone insomma che parlerà, che presenterà una delle relazioni a questo corso Io non discrimino, che è stato organizzato insomma diciamo da Amnesty, che riguarda l'omofobia, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e che si terrà il 28 febbraio a Roma. E niente, volevamo se ci presenti un po' l'iniziativa. L'iniziativa è partita appunto da Amnesty con l'Associazione Nazionale Preside, e credo che questa sia già una grande e bella novità, nel senso che appunto non tanto Amnesty quanto soprattutto l'Associazione Nazionale Preside prende in maniera ufficiale, si fa carico, no, di quella che è una realtà della società italiana e della società direi in genere, ovvero del fatto che nelle scuole esistono e frequentano le persone omosessuali e che spesso le persone omosessuali possono essere oggetto di discriminazione. Quindi è un ragionare insieme su questo fatto, insomma, anche su come affrontare un discorso importante che è l'omofobia nella scuola e su come trovare strategie. È un primo passo, ma direi insomma un passo importante, ha un grosso valore proprio perché l'Associazione Nazionale Presidi scende in campo in maniera così insomma importante. Senti Franco, questo interesse dei presidi, dell'Associazione Nazionale Presidi, tu pensi sia... Ma io scusate però non vi sento. Ah sì, allora, pronto? Sì. Ti dicevo, questo interesse, questa quindi novità che emerge da questo incontro organizzato anche dai presidi, tu come lo leghi alla cronaca recente che vede, no? Alla ribalta, purtroppo alla ribalta, questi atti di omofobia anche drammatici, no? Successi a Roma, che in ogni scuola c'è un legame, oppure tu pensi che sia finalmente dall'alto c'è anche una presa di coscienza sul fatto che di orientamento sessuale e di identità di genere si debba parlare a scuola? Guarda, un po' sicuramente questo, però i fatti di cronaca indubbiamente spingono alla riflessione. Io direi che bisogna prendere atto più che della, no, più che partire dai fatti e prevenire, bisogna prendere atto del fatto che la società di fatto è omofoba, nel senso che nelle scuole così come in tanta parte della società, soprattutto italiana, si respira aria di omofobia. Ogni scuola, io direi ogni contesto è omofobico se non si dice chiaramente anti-omofobia. Non è un gioco, nel senso che bisogna prendere atto del fatto che l'insulto più frequente da parte dei giovani che sono nelle scuole è frocio, e che generalmente questo insulto non è così stigmatizzato così come altri, no? Uh-huh. E questo significa che passa nel vivere comune, nel vivere quotidiano, nell'aria, nelle mura degli ambienti scolastici, passa l'idea che comunque essere gay è una cosa negativa, e se non si fanno interventi per contrastare questo, di fatto si lascia spazio all'omofobia. E quindi l'iniziativa credo che sia appunto un po' partire dal discorso di cronaca, un po' prendere atto che serve una presa di posizione in partenza, insomma, prima che gli eventi succedano, prima che gli eventi accadano. Certo, infatti ricordo l'offesa peggiore, no? Anche il titolo di un saggio che tra i primi cominciava a parlare dell'omosessualità e di come viene non trattata nelle scuole. E volevo dire questo: in realtà l'eterosessualità è data per scontata nella società e quindi anche nella scuola, e quindi viene veicolata attraverso tre modalità. Una, quella dei pari, quindi il rapporto tra i ragazzi, tra gli studenti e le studentesse, che comunque va affrontato, poi dall'atteggiamento anche degli insegnanti, e infine anche nei programmi e nei contenuti che detti o non detti presentano comunque rimuovono l'omosessualità dalla vita, dalla storia, dai personaggi che si incontrano, oppure viene affrontata. E gli insegnanti come possono intervenire, come possono modificare? Ho presente alcune inchieste che dicono che una parte dell'omofobia e dei ricordi degli studenti e studentesse di discriminazione viene anche dagli insegnanti. Sì, infatti una delle cose che vengono fatte poi dalle associazioni, che ben fatte voglio dire dell'associazione, generalmente sono interventi sulla popolazione studentesca rispetto alla conoscenza della persona, dell'omosessualità o della persona omosessuale, che va benissimo, no? È ottimo che questo si faccia. Io credo però che ci sia proprio bisogno di altro, cioè di un ribaltamento sia degli interlocutori che dell'oggetto. Bisogna cominciare a fare formazione agli insegnanti, poi tra l'altro non solo agli insegnanti, la prevenzione degli atti di bullismo significa anche tener presente di tutto il personale che c'è nella scuola, perché molto spesso noi insegnanti non ci rendiamo conto degli episodi che si verificano nei cambi dell'ora, piuttosto che in luoghi e in situazioni in cui noi non siamo presenti. Quindi anche il personale ATA andrebbe formato proprio nella osservazione e prevenzione degli atti di bullismo. E poi indubbiamente il discorso fondamentale è appunto la formazione permanente, e poi la rivisitazione anche dei testi scolastici, perché io come insegnante gay, poi anche studente gay fra l'altro, per me è stata veramente una grande una grande mancanza, no? Non ritrovare in testi scolastici posti in cui di me si parlasse. A tutt'oggi ho un'ontologia che sulle poesie di Saba, ad esempio, non fanno nessun cenno a una possibile lettura in chiave omoerotica, che è abbastanza... Sì, ricordiamo anche gli infortuni del ministero quando ha dato delle tracce della maturità in cui nelle persecuzioni... Una donna per un uomo. Sì, l'ultimo questo, ma nelle persecuzioni ignoravano... La poesia di Montale per un ballerino, esattamente, sì. Cui la traccia era tutta per lei. È ovvio e scontato che nella scuola esistono solo le persone eterosessuali. Il titolo del mio intervento nel corso sarà proprio l'importanza di essere onesti, che gioca un po' sulla, appunto sulla commedia di Wilde, no? Che proprio sul linguaggio, su come la non chiarezza porti a tutta una serie di incomprensioni. E secondo me invece la chiarezza, cioè il dire, il raccontare, il parlare, è l'arma essenziale per combattere l'omofobia. Una seconda cosa che vorrei dire è che noi parliamo, molto spesso gli interventi sono rivolti sulla chi è la persona omosessuale, no? Alla conoscenza dell'omosessualità. Io credo che dobbiamo avere il coraggio di cambiare l'ottica e dire, per combattere l'omofobia, perché questo è un po' la cosa che più ci preme come operatori scolastici, cominciare a fare dei corsi per dire chi è la persona omofoba. Nel senso che la persona omosessuale vivrebbe benissimo nelle scuole se non ci fossero gli omofobi. E allora il problema non è tanto l'omosessualità nelle scuole quanto l'omofobo nelle scuole. Va bene, Gianfranco, allora noi ti lasciamo, ti salutiamo, semmai ci risentiamo o poco prima o anche dopo, per vedere un bilancio, una sintesi di questo incontro che è il 28 febbraio a Roma, organizzato anche dalla provincia, quindi a Palazzo Valentini. Io non discrimino, orientamenti sessuali, identità di genere nella scuola italiana. Ti ringraziamo. Grazie. un po' dispiace parlare sopra Small Town Boys dei Broski Beat, però vorremmo passare a presentare un'altra iniziativa. Ci dovrebbe essere una corrispondente, una voce nota di questa radio. Pronto, ci sei? Sì, ci sono, ciao. Sembri nell'acquario, per dire la verità. Che succede intorno a te? No, in realtà sono in mezzo alla strada, quindi forse sentirai il traffico delle macchine che passano. Mi dispiace. No, vabbè, non fa niente. Mettermi in un punto riparato. Non so, così mi senti meglio? Sì, adesso ti sento meglio. E niente, abbiamo presentato Aurora, un'iniziativa diciamo di aggiornamento che riguarda diciamo l'omofobia a scuola, e adesso invece vorremmo parlare di questa tre giorni organizzata dal Laboratorio di Studi Femministe della Sapienza, che genere di programmi. E ne parliamo, sì. Ne vorremmo parlare con te, vorremmo che tu ci raccontassi un po' cosa sono questi tre giorni, che sono la prossima settimana, dal 19 al 21, un'altra occasione di formazione insomma per chi lavora nelle scuole. Sì, si tratta di un corso di formazione, un convegno rivolto appunto a chi lavora nella scuola, si intitola Che genere di programmi, con il punto interrogativo, per anni per una scuola che cambi, ed è un'iniziativa del Laboratorio di Studi Femministi Sguardi sulle Differenze, che è attivo dal 2010 alla Sapienza, è un gruppo di donne, soprattutto giovani ricercatrici nel campo degli studi delle donne e di genere, la Sapienza Università, che appunto con progetti nelle scuole. E l'iniziativa di questi tre giorni di corso di formazione è nata in seguito alla lettura critica che avevamo fatto del bando di concorso per il personale della scuola, che era uscito a settembre scorso. Cioè il concorso che si svolge in questi giorni. Emergeva, insomma. Sì, scusa, dimmi. No, dico, stai parlando del bando, del concorso che si sta svolgendo in questi giorni. Sì, di cui tra l'altro appunto in questi giorni ci sono le prove scritte, ma non ho capito se sono state rimandate per il maltempo, e quindi insomma, però parlo proprio di questo concorso. Cioè, quando abbiamo letto questo bando ci siamo resi conto che per l'ennesima volta appunto le istituzioni continuano a fare finta che esista un sapere comunque neutro e universale, come se la scuola non fosse appunto un luogo in cui si formano insomma giovani donne e uomini che saranno le cittadine e i cittadini di domani, e insomma si continua a presentare il sapere come qualcosa di neutro, universale, poi in realtà quasi sempre tutto è insegnato da un punto di vista maschile. Quindi quello che volevamo fare era cercare di ragionare sul fatto che ormai invece dopo 30 anni insomma è più di femminismo in Italia come nel resto del mondo, sarebbe ora di cominciare a riconoscere l'importanza di assumere una prospettiva di genere nell'insegnamento di tutte le materie scolastiche. Quindi non solo riconoscere appunto che sia i soggetti che insegnano sia appunto gli studenti e le studentesse hanno un genere, hanno un corpo connotato, sessuato, ma anche insomma tutte le materie che si insegnano non possono essere insegnate in maniera che appunto non tenga conto delle differenze di genere, quindi del fatto che appunto i corpi sono connotati in base al sesso e al genere, che le persone hanno un orientamento sessuale, che sono cose insomma abbastanza ovvie per noi, però effettivamente poi spesso i libri di scuola o il modo in cui si fa pedagogia, si viene strutturata la didattica, sembra dimenticare tutto questo. E quindi questi tre giorni è un'occasione proprio per fornire invece degli strumenti metodologici o anche degli esempi di buone pratiche e di unità didattiche per affrontare queste questioni all'interno della classe. Sono questioni su cui le persone che già lavorano nella scuola in realtà si misurano quotidianamente, però appunto i programmi e le istituzioni non riconoscono questo sforzo. E quindi ci saranno insomma nelle tre giornate esperte, docenti, esperte nelle diverse discipline, che appunto presenteranno il frutto delle loro riflessioni teoriche, ma anche degli esempi di appunto buone pratiche, di unità didattiche già svolte nelle scuole, che possono essere sia appunto degli strumenti per chi vuole tenere conto della prospettiva di genere nella sua attività di insegnamento, sia delle occasioni anche per discutere su come trasformare la scuola che c'è oggi, come trasformare i programmi scolastici, i canoni, non solo in, riconoscendo il ruolo delle donne nella storia, quindi anche nella letteratura, nelle scienze, eccetera, ma anche e soprattutto riconoscendo appunto la necessità di assumere una prospettiva di genere nello studio, nell'insegnamento di qualsiasi materia scolastica, ecco. Mi senti? Allora, ciao Sonia, ma in, diciamo, rivolgendosi a chi è digiuno, digiuna di queste questioni, no, che si dibatteranno in questi tre giorni, ma se in due parole è possibile, per esempio, non so, fare un, ecco, un esempio di come questo non viene fatto, la prospettiva di genere non viene affrontata, per esempio, non solo come questione sì, a margine ma non marginale, no, dell'insegnamento, e come invece questo nella proprio nell'insegnamento delle materie stesse agisce. Non sì, so, certo, che è una domanda complicata, però gli esempi di pratici potrebbero essere veramente tanti. Si parte dalla cosa più banale, cioè il fatto che appunto quando abbiamo letto il bando di concorso per la scuola, in cui si faceva il nome dei personaggi storici che bisogna conoscere, che fanno parte del canone della storia della letteratura italiana, su 35 scrittori c'era una sola donna, Elsa Morante, e questo è un po' il criterio principale che hanno adottato, insomma, le femministe quando hanno cominciato a mettere in discussione, no, la formazione dei canoni nello studio della letteratura, della storia, eccetera. Poi però dall'altra parte c'è anche l'importanza, come dicevo prima, di appunto adottare una prospettiva di genere nello studio di qualsiasi disciplina, per cui per esempio sappiamo che il lavoro delle per esempio nel il lavoro delle storiche è servito a affrontare lo studio della storia da punti di vista diversi, per cui per esempio se per anni la storia che si studiava era la storia dei grandi personaggi, dei potenti, quando è iniziato, insomma, una storia delle donne, si è cominciato a concentrare l'attenzione anche sulla vita quotidiana, come cambia la percezione del corpo, tutta una serie di aspetti di micro storia che appunto la storia con la S maiuscola fino ad allora non aveva mai affrontato. Oppure per esempio ci saranno una serie di interventi tutti sulla questione del gap di genere nello studio delle discipline scientifiche, cioè il fatto che c'è un luogo comune per cui sembra che le ragazze, le studentesse siano sempre più indietro rispetto ai maschi nello studio delle scienze, e forse perché non ci sono appunto modelli, di certo non è un fatto naturale, non c'è un ritardo o qualcosa di biologico che costringe, porta le donne ad essere più indietro nello studio delle scienze, ma forse quello che influisce è il fatto che non ci siano modelli di donne scienziate a cui le ragazze si possano ispirare per pensare, insomma, nel loro futuro di diventare, di intraprendere appunto una carriera nello studio delle scienze, così come la lingua sappiamo che non è neutra, il fatto di parlare sempre al maschile significa cancellare tutta una parte della realtà umana, dell'esperienza umana, per cui sappiamo oggi che la lingua non è neutra, finché non nominiamo anche il femminile sappiamo che stiamo operando una cancellazione anche teorica, e insomma così via dicendo. Ci saranno interventi appunto sullo studio delle varie letterature, delle lingue classiche, delle scienze, della filosofia, dell'economia, ecco. Beh, direi che ti sentiamo. Di parlare da sola, scusate, non sento. No, in effetti ti sentiamo un po' disturbata, ma non è il traffico, credo che sia altro. E niente, io credo che per ora possa andare così, magari poi ci possiamo risentire per sapere com'è andata. Vorrei ricordare il sito, che è www.sguardisullediferenze.org, il sito del laboratorio dove può essere letto il programma per intero, che è molto ampio perché appunto sono tre giorni, mattina e pomeriggio. È ancora possibile iscriversi a questi tre giorni? Sì, assolutamente, c'è la partecipazione. in realtà è aperta a chiunque sia interessato o interessato senza nessun obbligo, però per motivi organizzativi ci fa piacere ovviamente che le persone si iscrivano, ma anche fino all'ultimo momento è possibile farlo. Basta inviare un'email a sguardi sulle differenze @gmail.org con oggetto preiscrizione. E comunque insomma ti ringrazio per aver ricordato il sito, volevo approfittare per segnalare che appunto nei prossimi giorni su questo sito sguardi sulle differenze.org pubblicheremo anche dei materiali più dettagliati, cioè gli abstract degli interventi. Io non ho citato i nomi delle partecipanti perché appunto abbiamo più di 30 relatrici e non mi sembra il caso, però rinvio al sito appunto per trovare dei materiali più dettagliati che spieghino meglio di quanto ho saputo fare io così molto rapidamente che significa appunto introdurre una prospettiva di genere nella didattica. E insomma il sito è anche un'occasione appunto per trovare materiali che metteremo a disposizione di chi è interessato. Ecco, tutto qua. Bene, ti ringraziamo e ci vediamo al corso. Grazie. Ciao. Grazie a voi per averci dato spazio, insomma. Ciao. Ciao, ciao. Mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue chupando sangre, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta pe. Ci stavamo dicendo di ricordare due o tre cose. Una, che insomma per chi insegna c'è l'esonero, cioè quindi c'è la possibilità di chiedere l'esonero per partecipare a entrambe queste iniziative, anche se quella della provincia è di pomeriggio, però insomma c'è chi il pomeriggio lavora e quindi ha ugualmente bisogno dell'esonero. E il contratto lo prevede, sì, che possiamo avere credo 5 giorni l'anno per seguire corsi e robe del genere, d'aggiornamento. Per 5 giorni l'anno ci possiamo aggiornare. Domestica, economica. E poi vogliamo anche ricordare che queste due iniziative che abbiamo presentato sono rigorosamente gratuite, e questo ci teniamo a dirlo perché sinceramente c'è parecchio lucro spesso dietro a queste iniziative per la scuola, soprattutto se danno punti, in sostanza se li vogliono vendere questi punti. No conocen ni sus narices. No las conocen. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No. L'altra cosa che mi dicono di ricordare, insomma, è che possono partecipare anche gli insegnanti maschi anche a quest'ultimo corso, insomma. Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Ella salía del bonche equipo más allá de las 2 sábado en la noche. El punto pinta super serio, camisa cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha dura, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquierita el anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndito o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo curvatura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal, y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar, será en este siglo o en el otro. Mientras tanto las crudas formando un foco, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que real pila. Dolorosa esta pila, coge 15 millones en África sin clítoris pa' vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no, no somos iguales. Violentadores, no somos iguales. Penetradas, penetradores, no somos iguales. Las señoras, los señores, no somos iguales. La validez y lo los colores. Diversidad, diversidad. No, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, no, no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. Victoria. E l'ultima delle due telefonate che abbiamo fatto, insomma, parlando del corso proposto da Sguardi sulle differenze, ci diceva appunto la compagna per telefono che l'idea è venuta proprio dal fatto che il concorso indetto da Profumo, e ovviamente quando si bandisce un concorso si bandisce anche su cosa si deve prepararsi, no? Quali sono gli argomenti, eccetera, hanno di nuovo mostrato per esempio un canone letterario in cui ci sono solo uomini, anche per il Novecento mi pare ci abbia messo giusto Elsa Morante perché quest'anno è il centenario, e non c'è Emilia Rosselli per esempio, non c'è Alda Merini, insomma non ci sono delle cose strane. E comunque, detto questo, torniamo a parlare di questo concorso, perché questo concorso doveva iniziare ieri e invece non è iniziato. Sì, il concorso non è iniziato perché effettivamente sembra ci fosse un pericolo, un rischio neve, valanghe, alluvioni, e che ha indotto il Ministero a rimandare le prove scritte del concorsaccio, e questo effettivamente ha ingenerato tutta una serie di disguidi proprio all'interno delle scuole, che erano quelle che erano state scelte tra l'altro come sede di concorso, perché in qualche caso evidentemente essendo avvenuto tutto questo in tempi piuttosto stretti non è stato possibile neanche mandare i ragazzi a scuola, quindi le scuole sono rimaste chiuse, ma il concorso non si è tenuto. E a questo riguardo, insomma, va forse segnalato che c'è un comunicato piuttosto pesante del coordinamento dei precari uniti contro i tagli, che obiettivamente in maniera molto motivata e molto puntuale fa a questo punto una sintesi di quelle che sono le storture che si stanno accumulando attorno a questo concorso e che lo rendono evidentemente sempre più un concorso farsa, e l'elenco è a questo punto piuttosto lungo perché si ricorda, per esempio, vado a leggere alcuni brani, insomma, di passo in passo, si ricorda che la natura propagandistica del concorso è confermata prima di tutto dal fatto che sia oramai abbastanza chiaro che è stato bandito su posti fantasma, insomma, perché nelle diverse regioni gli esuberi ammontano a circa 9.000 posti e che quindi non tutti i posti messi a bando potranno essere realmente coperti, e questo evidentemente darà luogo a tutta una serie di incongruenze. Ricordiamo che il concorso è stato bandito come concorso esclusivamente per l'immissione in ruolo, non dovrebbe dare luogo alla redazione, alla realizzazione di graduatorie, ma al di là di questo poi ci sono cose di cui abbiamo più volte dato conto anche in maniera piuttosto diffusa da questi microfoni, per esempio la follia del quizzone con cui sono state fatte le preselezioni e per esempio il fatto che alcune delle persone che erano state escluse dal quizzone per non avere superato la soglia della sufficienza, sostanzialmente della sufficienza prevista per quel quiz, siano state poi reintegrate da una sentenza del TAR e quindi potranno presentarsi, sentenza alla mano, per sostenere le prove scritte, ingenerando evidentemente un'atmosfera di assoluta incertezza sia in chi dovrà sostenere le prove, ma sia anche nei commissari e negli insegnanti preposti alla sorveglianza, all'identificazione e alla gestione sostanzialmente delle prove. E poi quello che viene sottolineata è l'ultimo punto di cui abbiamo già in parte parlato, cioè il fatto che effettivamente dal momento che tutti ci rendiamo conto che almeno alle nostre latitudini questo rischio neve è obiettivamente un fatto piuttosto inconsistente, sembra proprio che in realtà uno dei motivi per cui il concorso non è effettivamente partito su tutto il territorio nazionale sia il fatto che nei fatti, come accennavamo già la volta scorsa, non sia possibile ancora formare le commissioni. E abbiamo cercato di rendere conto della follia del bando per il reperimento dei commissari, che prevede tra le altre cose la non possibilità di esonero. A questo punto è così per chi si candida a fare il commissario del concorso, e contemporaneamente diciamo una paga risibile e obiettivamente offensiva, perché lo ricordiamo, sono previsti 208 euro forfettari e 50 centesimi a elaborato corretto o a interrogazione sostenuta. E questo ha indotto il Ministero a riaprire più volte le procedure per il reperimento dei commissari, ben due volte, una volta il 22 gennaio, ma non sono state evidentemente messe insieme il numero di persone adeguato. Sono state riaperte il primo di febbraio e probabilmente ancora una volta non si è riusciti a mettere insieme il numero di commissari necessari. Questo ha indotto il Ministero a variare quelli che sono i criteri di reperimento dei commissari, a variare sostanzialmente il bando, rendendolo molto più comprensivo. E quindi che cosa succederà? Succederà che in primo luogo è stata aperta la possibilità ai membri esterni, a commissari cosiddetti esperti, che in prima battuta si richiedeva che fossero più o meno qualificati, con titoli di tipo differente, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e così via, mentre invece il criterio è stato cambiato ed è sostanzialmente, mi pare di capire, sufficiente solamente la laurea. E dopodiché si è aperta ancora una volta inoltre la possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici anche a dirigenti e docenti pensionati da lungo tempo, e quindi possiamo renderci conto insomma come effettivamente non si può che convenire con il coordinamento dei precari, riconoscendo il carattere propagandistico e dir poco ma assolutamente di truffa e di beffa di questo concorso, e non si può obiettivamente non unirsi a loro nel chiedere l'annullamento di una procedura che sta diventando assolutamente ridicola. Beh, io vorrei soltanto aggiungere che io sono contenta che siano stati pochi e poche i colleghi che hanno accettato di far parte di queste commissioni giudicatrici, e oltre a questo volevo anche dire che questo annullamento per tempo, per motivi climatici, a mio parere veramente poco credibile, anche perché ci devono essere come delle ordinanze comunali per dire che c'è un pericolo reale, altrimenti non si capisce, non si fa il concorso. Però in tutto il nord Italia, dove effettivamente ha nevicato, le scuole sono aperte, funzionanti, la gente esce di casa, va a scuola, va a lavorare, però il concorso non si poteva fare. Quindi insomma c'è una qualche incongruenza in questa situazione, a me pare. Sì, sicuramente. Volevo aggiungere solo una cosa, perché mi sembra importante, perché in questo comunicato i colleghi precari continuano a fare appello a tutti quanti gli insegnanti, alla dignità professionale dei colleghi e dei dirigenti, che a quanto pare verranno progressivamente costretti, in qualche modo sollecitati a assumere il ruolo di commissari, a boicottare quella che loro chiamano effettivamente una sordida messa in scena allestita evidentemente a questo punto in barba alla qualità e alla competenza. Quindi ancora una volta l'appello da parte dei colleghi precari a boicottare il concorso in tutte le sue forme e in tutte le forme possibili. C'è anche un altro aspetto, che è quello che riguarda l'assistenza alle prove scritte, perché comunque nelle scuole l'annuncio della sospensione del concorso è arrivato sabato, quindi ha creato veramente problemi grossi, e quindi, come dicevamo prima, oggi le scuole che erano sede di concorso non hanno potuto comunque effettuare la didattica, perché era impossibile, anche mettendo sul sito delle scuole il controordine, cioè si viene a scuola, non era possibile essere sicuri che si raggiungessero tutti gli alunni e le alunne e le loro famiglie. Quindi oggi queste scuole, credo nella totalità, hanno perso un altro giorno di lezione. E comunque pure su questo, come già avvenuto per il concorso a preside, c'è stata una sorta di precettazione non solo del personale non docente, ma anche degli insegnanti e delle insegnanti che dovevano assistere in classe con un'opera di vigilanza, questa volta anche di identificazione per la struttura pure del concorso, che è organizzato un po' come l'esame di Stato, cioè si parte tutti insieme e con un inizio più o meno che deve essere comune, per evitare appunto fughe di tracce, per così dire, e quindi con un ordine dall'alto di svolgere una funzione per quanto riguarda gli insegnanti, che assolutamente non è prevista da nessuna parte, cioè non esiste da nessuna parte che un insegnante debba svolgere opera di vigilanza in un concorso, sia pure nella parte scritta. Io volevo aggiungere una cosa che forse può sembrare, come dire, un po' sentimentalistica, però credo che abbia anche dei dati di realtà. Insomma, io in questi giorni vedo i miei colleghi e le mie colleghe che sono precari e che si stanno preparando alla settimana prossima, quando insomma avranno le prove, perché oggi questa settimana partivano dalle primarie, per cui io insegno una secondaria e quindi la prossima settimana dalla scuola dell'infanzia partivano proprio. E sinceramente, come dire, mi va di esprimere tutta la solidarietà a queste persone che si trovano innanzitutto a lavorare esattamente come faccio io e contemporaneamente a dover preparare un concorso che sostanzialmente è stato indetto a settembre, la preselezione è stata prima di Natale, e quindi in un mese e mezzo dovrebbero preparare sostanzialmente lo scibile umano, perché poi di questo si tratta per tutte le materie, senza indicazioni precise per quella parte che si chiama avvertenze generali, che riguarda un po' tutto, cioè dalla psicologia alla pedagogia alla storia della scuola alla legislazione scolastica, eccetera eccetera. Il tutto, come dire, con l'afflizione di chi si rende conto che è tutta una grande buffonata, in cui però, siccome quello che si rischia poi è un posto di lavoro, ovviamente sottrarsi o riderci sopra diventa molto complesso, e quindi, come dire, vedo da una parte la demoralizzazione e dall'altra la rabbia che cresce, e lo vedo, ripeto, in persone che lavorano al mio fianco, fanno il mio stesso orario di lavoro, fanno le stesse cose che faccio io, e lo fanno da poco più tempo più di me, comunque da 10 anni in media, perché altrimenti non avrebbero un incarico annuale. E quindi insomma, niente, mandava di dirlo perché poi alla fine tutto ciò riguarda la vita di tante persone che continuano anche a essere prese in giro, qualcuno viene preso in giro anche più di loro, perché nel frattempo, e forse un giorno insomma riusciremo a parlarne anche da questi microfoni, è partito anche il TFA, che è il nuovo canale per chi non è abilitato per prendere l'abilitazione, cioè si tratta di altre generazioni di insegnanti in erba che stanno frequentando un corso a 2.500 euro l'anno e che non si sa quando lavoreranno, perché già adesso insomma i canali sono molto chiusi, anche tenendo conto che andiamo in pensione più tardi, che sono stati tagliati i posti di lavoro, eccetera eccetera. Quindi, come dire, la precarietà e la disoccupazione continuano a essere argomenti rilevanti. Ora, oggi non c'è la compagna, una delle due ATA partecipano a questa trasmissione, ma c'è anche da ricordare quello, insomma, anche i precari e le precarie tra gli ATA che si trovano quest'anno in questa situazione paradossale di continuare a non avere incarichi annuali ma solo fino a nomina avente diritto. Insomma, come dire, la situazione è sempre più anche proprio umiliante rispetto alle condizioni di lavoro. Allora, sì, sono quasi le 9:50. Allora, noi adesso volevamo accennare soltanto a un'altra questione. Cioè, noi più volte nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del fatto che nei programmi elettorali la scuola fosse almeno da quello. È una telefonata per noi? Sì, ora credo che debba tornare, però, questa telefonata, perché allora ora non sta squillando niente. Ci interrompo. Perfetto. Eccolo. Allora mettiamo un secondo la musica, va? Così riusciamo magari a prenderla. Dite che c'entra, niente, però non possiamo fare a meno di commentare. Pinta Santa María y aparto un día. tradito dai oracoli, a piombra perderà i tentacoli e cascherà il tabù. Quell'ultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero. Sarà vero, dopo Miss Italia, vero un papà nero. Non è parvero, un papà nero che ascolta le mie canzoni vere, siamo un paese nero africano. Dopo ve la facciamo finire di ascoltare, ma intanto abbiamo una telefonata. Pronto, ci senti? Sì, eccomi, ci sono, ciao. Ciao. Ciao, sono Paola. Senti, no, io chiamavo perché anch'io ho fatto la prova preselettiva per il concorso per gli insegnanti e non l'ho passato, ho fatto 34.5. Ovviamente poi è uscita questa cosa del ricorso al TAR dell'ANIAS e adesso mi chiedevo se io, siccome non ho fatto il ricorso al TAR, però comunque ho quel punteggio compreso tra i 30 e i 34, quindi si è abbassato il livello della soglia della sufficienza, posso secondo voi partecipare a questa prova, scritta oppure no? Io non so. Guarda, noi insomma non siamo proprio esperte, però occhio e croce, mi sembra che il ricorso sia individuale, per cui no? Mi guarda il mio compagno, sgrana gli occhi. Cioè, io credo di no, però se qualcuno ha un'opinione diversa, credo che valga solo per i ricorrenti, tant'è vero che si presentano, io lo dico perché nella mia scuola c'era il concorso, quindi a me mi avevano adibito a controllare le sospensive del TAR e quelle sono individuali, cioè arriva, come già avvenne pure per il concorso a preside, si arriva con la sentenza, c'è il nome del candidato o della candidata e quindi quello dà la possibilità, pur non essendo in elenco magari eccetera o essendo introdotti con riserva, quindi credo di no, però ti puoi rivolgere magari a questa associazione che ha organizzato un po' l'ANIEF. Io credo di no, l'ANIA, insomma, vabbè. Solo che siccome, ecco, non so, magari voi ne sapevate anche voi. Io credo di no, però. Semplicemente è stato abbassato praticamente nel momento in cui si accettano persone che hanno preso un punteggio più basso in un bando pubblico, tu stai abbassando la soglia della sufficienza. Quindi se. Insomma, sì, diciamo che le indicazioni dall'alto sono no, però effettivamente la cosa più logica sia andare da chi ha fatto il ricorso e vedere se insomma loro che dicono, ecco. Certo, va bene. E vi ringrazio, niente, io mi rendo conto che insomma non ci sono altre persone che hanno la mia stessa domanda, non mi ha chiamato nessuno. No, però perché credo che anche altre persone abbia, anche se non hanno chiamato noi, insomma, che sì, ci siano persone che sono state prese un po' in contropiede, l'hanno appreso dopo e non si immaginavano che ci potesse essere questa escamotage. Però più di quello, io ti ripeto, credo di no, perché credo che le sentenze non siano erga omnes, però sì, informati meglio perché è una cosa importante, insomma. Va bene, vi ringrazio. Bocca al lupo. Crepi, ciao. Dopo mi si toglie avere un papà nero, non è parvero, un papà nero che canta le mie canzoni bene, siamo anche se nero africano. Come dire, stamattina a scuola la battuta più, almeno nella mia, più frequente che girava era Berlusconi, dopo l'Imu ci leva anche il Papa. Beh, comunque insomma Grozza non ne potrà parlare a Sanremo e vabbè, niente, ne faremo a meno. Ma di Berlusconi o del Papa non ne può parlare? Del Papa, c'è una cosa che ha detto Berlusconi, sia lontano, giù le mani dal Papa, ce le posso mettere solo io. Mette le mani addosso a qualcuno, in ambito clericale non si usa parlarne, no, perché poi diventa subito, come dire, imbarazzante. No, perché una delle grandi imitazioni di Grozza fu proprio Ratzinger, no? Sì, sì, certo. Era, che insomma fece un po' di sconcerto. Vabbè, allora in questa manciata di minuti volevamo introdurre solo un argomento. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse di questa carenza, o meglio fumosità, detto o non detto, nei programmi elettorali di quello che i partiti vogliono e le coalizioni varie vogliono fare per quanto riguarda la scuola italiana. Allora noi è un argomento complicato, nel senso che noi abbiamo a disposizione, ve lo metteremo sul blog il link, un articolo molto interessante, molto lungo, molto corposo, a firma di Girolamo De Michele, che evidentemente conosce l'argomento molto bene, con tanti rimandi. Sono 12 pagine, quindi ripeto, metteremo il link sul blog di Ora di Buco e poi diamo tutti i riferimenti che non abbiamo dato all'inizio. Il sito è www.carmillaonline.com e poi insomma lì si trova facilmente perché è di questi giorni. La sostanza è che però in questo articolo si analizzano i programmi delle cosiddette formazioni, delle formazioni cosiddette di sinistra, ovviamente, quindi di sinistra, insomma, no, anche perché ci mette Rivoluzione Civile, ci mette il Partito Democratico SEL e ci mette anche il Movimento 5 Stelle di Grillo. Ripeto, è molto corposo, noi abbiamo cominciato a leggerlo, ma va veramente studiato. Ma al di là di questo, quello che si vede, che un po' accomuna anche nelle differenze, è il fatto che in realtà non c'è un grande sconvolgimento di tutto quello che è stato fatto nella scuola pubblica italiana, ma anche in un altro senso in quella privata, sconvolgimento che noi abbiamo detto più volte non nasce certamente con il ministro Moratti, ma nasce invece con le riforme del ministro di area il ministro del PD, comunque di area centrosinistra, Berlinguer, ma anche De Mauro, con tutta la trasformazione dell'università, con i crediti, guerre stellari e cose del genere. Quindi insomma vi rimandiamo sicuramente a questo articolo e poi magari se ce la facciamo insomma lo affronteremo. Poi c'erano anche interessanti notazioni che abbiamo trovato, per esempio sul programma di Monti, la coalizione di Monti, che ovviamente ancora di più, cioè non è che manco si pone il problema di tornare indietro su quello che è stato fatto, ma propone ancora di più. Una questione che accomunava un po' tutti, al di là forse di SEL, ma nemmeno tanto più di tanto, è il fatto che comunque per esempio sulla questione della scuola privata ormai il dato è tratto e non se ne parla insomma di tornare indietro. Però ve lo rimandiamo così com'è su questo sito, insomma è l'unico che abbiamo trovato adesso che insomma affronta un po' l'argomento nei programmi elettorali. Sì, per quanto riguarda Monti, per dirla proprio in sintesi, è tutta la legge Aprea più ancora più soldi alle scuole private. Questo è quanto. E detto questo, vi salutiamo, sono le 16:58 minuti, ci sentiamo martedì prossimo, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, vi lasciamo anche i nostri recapiti, che appunto sono oradibuco.noblogs.org per il blog su cui troverete anche il rimando a questo articolo che ha pubblicato Carmilla Online, e oradibuco@ondarossa.info per quanto riguarda la nostra mail. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali.